amore, tanto se c'è tanto mica era educato a vero, tanto stava a vedere, mi abbacciano più su di casa, proprio ho letto. Tanto non so come volevo attirare avanti, io ho entrato. Avete parlato in 47. Dai Giuseppe, vai. Venga, chi era? Va, non si è presentato. C'è qualche... Non lo saci. Ti ha parlato sopra e basta. Ehi, capa. Oia. Ma tu ci ho messo in gente alla torre, sì? Oia, la torre si gioca in casa contro il... con la cazzuela, cazzo. Non lo so, che squadra è, Sì, più o meno io lo sappia io. Oi, è il GIS. E così, anche oggi i rossoneri hanno fatto un altro risultato positivo. Ci sono passati più 3 di vantaggio. Andava bene. Ho visto che stavano spalancando lì alla stazione. Rita. Anzi, le stavano andando. C'erano le croci rossine a consolarli. Vuol dire che o hanno raggiunto l'accordo di dargli quei soldi oppure non lo so. No, ci hanno pensato le croci rossine, dai, le hanno messe su loro. Ci hanno pensato loro a tirarli su. Per carità, Giuseppe. E Alessio, mi sono quasi arrivato a casa di Alessio. Cavolo, ma se poi vuole entrare va bene, se poi dovete andare a qualcosa andate pure tranquilli, ci ascolteremo dalla macchina. Sì, non c'è problema, adesso lo suono, se risponde è buono, se no c'è la piglia nel cuore io. E non ti tengo. Già non si offende. 5 minuti, dai, vabbè, vado a vedere se si sta già andando. Forse siamo lì, non ci siamo mai indietro. Alessio, con voi non ci sei. Sto viene a salirci tu, Vabbè, là, 5 minuti in bianco, là. Magari c'è l'apparato, aspetto, non ti sente, suona le campanelle. Fatto carica. Sì. spiaggia del cazzo, tutto. Cappa, tutto a posto, Giuseppe, tutto a posto. Adesso vado a Piazza dei Segni, mi fido un caffettino e pomeriggio. Ehi, va bene. Vabbè, dai, ci sentiamo al palazzo per stasera, se accetti. C'è problema, ci sentiamo più tardi. Ciao, Giuseppe, buona domenica, buon tutto e a più tardi se coincide. Ciao. Ciao, Parker. Ok. Dimmi, Mario. Uno, due, tre, troppo, e adesso? Adesso è migliorato, qui ci dovrebbe essere Giuseppe. Giuseppe, lo senti a Mario? A Mario? Prova a vedere. Buonasera, Giuseppe, sentite, buona domenica. Potreste prova, dove sei? Nel piazzale? No, io sono qua, zona Carbonazzi. Sì, insomma, come ti arrivo? Mi stai arrivando a Fotoscala. No, quello già lo vedo anch'io. Sì, da parecchio che c'ho, di radio. Radio è buona, Radio 5. Fondo Scala, Radio 5, Mario. È vero, no, siccome stamattina stavo modulando la camera da pranzo, no, dove c'ho tutti gli apparati. Adesso ce l'ho sempre comodino vicino al letto. Poco fa ho chiamato ho chiamato e dice che era basso, che cosa era? Stavo scendendo senza antenna, perché l'antenna era sull'altro baracchino al centro. No, la stai scendendo bene, Mario. Oh, per qua, per quanto ti ascolto io, stai scendendo abbastanza bene. Ok, e adesso? Nel senso, prova a fare un passaggio, va bene? 1, 2, 3, prova, di inversione, 1, 2, 3, prova. Avanti. La radio di 5 è un segnale di 8, eh. Ok, e tu come mi senti, Rossi? Io sono zona tutta quanta su Stadio dei Pini, dai, quella zona lì, dove c'è la torre, si è capito? Che ho capito, e qui ho sentito che stai andando anche alla torre, se no? No, negativo, no, me ne sto rientrando perché sono voluto andare a prendere Alessio Pomponio, ma c'è la febbre, dunque negativo per quella questione, e dunque si farà una prossima volta, hai capito? Adesso lanciamo tutta l'unzione, sì, ho aumentato. Cappa. Oh. Avanti. E come mi cuffia adesso? Sì, ti cuffio, Mario. Bene. Sì, cappa, ti accoppo abbastanza bene. Io sono qua dove c'è la torre, cioè, che mi sto fermando a pigliarmi una caffeina e sta arrivando puntuale. Ok, meglio così. Adesso mi faccio, aspetta vicino, mi faccio e buonanotte ciccia. Ciao, ben sentito e saluto anche a Leoncino. Ok, ciao, ricambiati accento, dai. Buono riposo e buon tutto, dai. Ci sentiamo tutta la prossima linea. Ciao, riprendi, Parchetto. Ciao, Mario, non sono Leoncino, sono Parchetto io. Cappa, dai, buon riposo, buon tutto, Mario, alle prossime. Questa volta sto confondendo davvero, mi con te lo dico, perché? Scusa, attagli. E adesso come stai uscendo, bene? No, adesso andiamo bene, un po' bassino se mangiamo bene, dai. Ok, meglio così. Sentiamo stasera, a risentirci le bruci. Ehi, ciao Mario, fate la porta. Ti ha dato un caffè a me, devo uscire.